Radio Città Fujiko e il CRAP, Comitato Ricerche Associazione Pioniere, presentano Fumetti a Sinistra, il Pioniere, un mondo dentro a un balloon. Che mondo sarà se ha bisogno di chiamare Superman? Che mondo sarà, fa l'effetto del motore che non va. Bentornati anche all'appuntamento dei Fumetti a Sinistra, un mondo dentro al balloon, che oggi si confronta col classicissimo I comunisti mangiano i bambini. Vedremo nel corso della trasmissione che non è solo un modo di dire antico o magari un poster della DC 48esca, è una cosa che affonda radici molto più nel passato, che viene utilizzata in tutti gli anni 50, anni 60 e forse qualcosa anche di più. Abbiamo più volte parlato delle campagne clericali contro il Pioniere, l'associazione dei Pionieri Italiani negli anni 50 e anche negli anni 60, con alcune punte particolarmente violenti e volgari, come quelle che portarono al processo di Pozzonovo nel Padovano, ma vediamo appunto che non nascono dal nulla, ma seguono un copione storico già scritto. Per questo excursus avvaliamo del parere di uno storico, Marco Fincardi, dell'Università Ca' Foscari di Venezia, che in qualche modo ci riporta addirittura nel suo incipit alla Repubblica di Weimar. Oh, inside of these bones, an emptiness began to grow. There's something out there far from my home, a longing that I've never known. I'm the master of fright, and a demon of light, and I'll scare you right out of your pants. To a guy in Kentucky, I'm Mr. Unlucky, and I'm known throughout England and France. And since I am dead, I can take off my head to recite Shakespearean quotations. No animal nor man can scream like I can with the fury of my recitations. But who here would ever understand that the pumpkin king with the skeleton grin? Lo storico Marco Fincardi. Tutto il dibattito che c'è nella Germania, ma anche nell'Austria di fine anni 20, quando c'è ad esempio uno psicologo allievo di Freud, un certo Wilhelm Reich, che è il teorico della rivoluzione sessuale, che proprio con le associazioni dei Falchi Rossi e dei Pionieri cerca di diffondere l'educazione sessuale. Motivo per cui un francescano austriaco scrive un libretto, un opuscolo che si trova nelle biblioteche di mezza Europa, dove spiega che partecipare alle attività dei Falchi Rossi o dei Pionieri vota i figli degli operai alla sifilide, inevitabilmente. Uno studio storico di qualche anno fa, riprendendo anche tutta quella che è la cultura del pioniere, è un libro di Stefano Pivato, di uno storico mio collega, che ha scritto questo libro, I comunisti mangiano i bambini, dove questa immagine che in anni recenti è stata rievocata da Berlusconi, in realtà ha una storia che viene da lontano. Viene da lontano perché in Occidente, al fatto che in un'Unione Sovietica degli anni 20, degli anni 30, in mezzo a carestie che venivano da un protrarsi di guerre, prima di guerra mondiale, poi di guerre civili, che avevano devastato completamente l'economia, c'erano anche episodi di cannibalismo e appunto c'è una certa propaganda che inizia a dire che questi episodi di cannibalismo riguardavano il fatto che l'uomo rivoluzionario sovietico, il bolscevico, inevitabilmente era un orco che era portato a mangiare i bambini. Ora, anche gli esempi di cannibalismo ce n'erano effettivamente, la polizia sovietica li reprimeva con estrema durezza, sostanzialmente con fucilazioni, ma erano episodi che c'erano, a volte erano bambini che mangiavano degli adulti, appunto vi parlavo di quest'infanzia abbandonata, spesso dedita alla criminalità, che il regime sovietico cercava di rieducare, di riavviare un tipo di vita nuova. Dopodiché questo tipo di propaganda viene ripreso dopo la guerra di Spagna, perché di fronte alla possibilità di una sconfitta delle forze repubblicane, in Spagna il governo repubblicano convince molte famiglie, soprattutto le famiglie dei militanti, dei miliziani repubblicani, a mandare i propri figli all'estero. Molti vengono mandati in Francia, ma la maggior parte vengono mandati in Messico e in Unione Sovietica. Perché cerca in questo modo di salvarli, perché effettivamente le truppe franchiste, quando arrivavano, non solo facevano massacri di adulti, ma poi prendevano i bambini e li chiudevano in collegi clericali, quando non addirittura, sono cose che poi ritroveremo in vari regimi dell'America Latina negli anni 60, 70 e anche 80, quando non addirittura li facevano adottare poi da famiglie di fascisti, facendo dimenticare le loro famiglie originarie. Quando la Repubblica si estingue e viene creato il regime franchista, c'è tutta una propaganda che martellante che invoca il ritorno di questi ragazzi, li si chiama los niños de Rusia, bambini di Russia, perché si dice questi bambini sono stati mandati in mano ai bolscevichi a farsi innanzitutto scristianizzare, ma poi a essere utilizzati come schiavi, anche come schiavi sessuali naturalmente, perché il discorso del sesso va sempre messo assieme a queste cose nei discorsi fascisti, e anche a essere naturalmente mangiati. Ma perché, come mai, ma perché? In cucina non ci entro mai, eh? Cosa c'è nella padella? Che profumino! Fai assaggiare un pezzettino, ma che bontà, ma che bontà! Ma che cos'è questa rubina qua? Ma che bontà, ma che bontà! Ma che gustino questa roba qua? Ma che bontà, ma che bontà! Ma che cos'è questa rubina qua? Ma che bontà, ma che bontà! Ma che gustino questa roba qua? Vitello delle Ande? No! Bovino della Gallura? No! Ma che cosa sarà mai questa robina qua? Ma perché, come mai, ma perché? In cantina non ci vengo mai. Bello questo vino! Vino di una volta! Fai assaggiare un goccettino, ma che bontà! Ma che bontà! Ma che cosa questa robina qua? Ma che bontà, ma che bontà, ma che gustino questa roba qua, ma che bontà, ma che bontà, ma che cos'è questa robina qua, ma che bontà, ma che bontà, ma che gustino questa roba qua. Parolo delle Langhe? No. Aleatico dell'Elba? No. Ma che cosa sarà mai questa robina qua? Ma che bontà, ma che bontà, ma che cos'è questa robina qua? Ma che bontà, ma che bontà, ma che gustino questa roba qua? Ma che bontà, ma che bontà, ma che cos'è questa robina qua? Ma che bontà, ma che bontà, ma che gustino questa roba qua? Cioccolato svizzero? No. Cacao della Bolivia? No. Ma che cosa sarà mai questa robina qua? Cacca. Successivamente, sul modello di quella che era la propaganda franchista, anche lì la Repubblica di Salò in Italia fa un'operazione del genere. Alla fine del 43, nel Natale del 43, Natale è la festa dei bambini, c'è l'immagine della nascita del bambino, così, quindi i propagandisti di Salò pensano che sia un momento idoneo

c'è questo tipo di propaganda. Ecco, quindi l'immagine, la frase fatta che tante volte noi usiamo oggi ironicamente per dire sì, sono i tempi dei comunisti che mangiano i bambini, in realtà era una propaganda che aveva una propria materialità, che oggi noi possiamo usare ironicamente, ma che all'epoca nulla di ironico aveva. It's a dark night. Dark night. It's a dark night. The neighborhood was changing. Con la musica di Tarantino cambiamo completamente ambiente. Tarantino nel cinema ci riporta Lasdale nella letteratura, e di Lasdale parleremo della sua passione per i fumetti con l'ultima pubblicazione Bonelli. John Lasdale, uno scrittore che ha percorso tantissimi generi nella sua vita, quello per esempio investigativo con i suoi personaggi Appelleon Hard, tra l'altro l'ultimo lavoro, anche Tank Samurai, ha avuto la copertina illustrata da Zero Calcari, che nella immagine d'apertura ci mette anche il suo avatar tra gli altri personaggi assatanati, ma poi ci sono i racconti che portano a sorte di America anni 30, alla Steinbeck, personaggio assai amato da Lasdale, in fondo la palude, la sottiglia linea grigia, a cui si allungano tanti western splatter, un personaggio che ama cimentarsi sui più diversi generi, sempre in questa sua scrittura stridente e sarcastica. Per quanto riguarda poi invece i fumetti, la sua collaborazione non è nuova, come La lunga strada della vendetta, Assassini nella giungla, Il canto dei morti, Laggiù nel profondo, Fidati amore, Distinti saluti, Le ali dell'inferno. Ed ecco che arriva per la casa editrice Bonelli questo Deadwood Dick, che in realtà sono 7 numeri, una serie datata a Balloon con racconti western di Lasdale, che sono incentrati sul personaggio di Nat Love, un cowboy di colore che ha vissuto dopo la guerra di secessione americana. Le storie sono basate su racconti Solder and Hide and Heart, il romanzo breve Black Hawk Jack. I sceneggiatori del fumetto sono Michele Basiero, Maurizio Colombo e Mauro Boselli. Ai disegni invece Corrado Mastantuono, Pasquale Frisenda e Stefano Andreucci. Al Festival Noir, Luca Svizzeretto ha interpellato lo stesso Lansdale chiedendogli del suo rapporto col fumetto e sentiremo che è un rapporto assai stretto e non da oggi. La prima domanda che insomma volevo fare parla di noir, ma passano molte opere di tanti generi e sottogeneri, horror, thriller. Ecco, io ero curioso perché nei suoi libri, nelle sue opere, che insomma tutti amiamo molto, anche qui i generi spaziano. Ad esempio si passa dalla trilogia del drive-in, molto fantasy horror forte, a storie sicuramente altrettanto violente ma più reali. Quindi volevo sapere da cosa nasceva questa differenziazione nel suo modo di scrivere. Comic books. When I was a kid, I learned to read. Ma tutto questo viene dai libri di fumetti, li leggevo da ragazzo nei fumetti i generi sono sempre molto mescolati. Io sono cresciuto con quel tipo di letture e quindi quando ho cominciato a scrivere i romanzi, le short stories, eccetera, non era strano per me mescolare queste cose o scrivere in questi generi diversi, perché appunto in questo modo c'è più, cioè i personaggi si capiscono di più, c'è più feeling, ci sono più idee. Dobbiamo dare la colpa ai fumetti di questo. I have to blame comics though. Which I love. Ecco, allora a proposito di fumetti, c'è un nuovo fumetto italiano che è Morgan Lost, e noi italiani amiamo molto i fumetti della Bonelli, non so se lei li conosce, che sono insomma i fumetti più importanti qui in Italia, però ero curioso di sapere allora a questo punto quali erano le sue letture da ragazzo e poi adesso insomma da adulto dei fumetti. E poi, sempre legato a questo discorso, visto che qui è presentare Honky Tonky Samurai e c'è una collaborazione con un noto fumettista italiano che è Zero Calcare, volevo sapere come nasceva questa cosa. Well, the collaboration, I'm going to start with that. Yeah. Zero's, what happened, my publisher, my editor actually just said... Rispondo prima della seconda parte della domanda, cioè come è nata la collaborazione con Zero Calcare. È stata un'idea dell'editore, anzi del mio editor, e ha pensato a lui, ci ha fatto incontrare, ci siamo piaciuti, è nata la collaborazione, ha disegnato la copertina, mi è piaciuta e così è andata. E per quanto riguarda invece le mie letture di fumetti, ho cominciato a leggere i fumetti quando avevo 4 anni e leggevo questi Funny Animal Comics, fumetti con i buffi animali. Poi sono passato, crescendo, a quelli dei supereroi DC Comics e poi a quelli della Marvel. Però mi piacevano di più i personaggi di DC Comics, anche se quelli della Marvel erano un po' più per ragazzi, un po' più, diciamo, erano un po' più per adulti, diciamo. Come personaggi. Mi piacevano questi DC Comics soprattutto perché erano un po' più vicini alla vita reale. E adesso leggo soprattutto, cioè vado indietro nel tempo e rileggo gli archivi dei fumetti, quelli per esempio DC Comics o i Marvel che leggevo prima. Poi leggo anche cose che mi vengono suggerite da amici, da appassionati, superheroes, però sono questi che, come dire, mi continuano ad appassionare ancora adesso. Quando vado ad Austin, vado nei negozi di fumetti e me li guardo tutti, sono lì a spulciare qualsiasi cosa, le varie collezioni, eccetera. Ovviamente accetto suggerimenti, quindi sono curioso anche delle cose che vengono fatte adesso, però praticamente, diciamo, attualmente quello che faccio di più è andare a spulciare i vecchi archivi dagli anni 40 ad oggi. But what I've been reading mostly these days are the old archives from DC, from the 40s on up to modern times. C'è un'aggiunta a questa risposta. Adesso che i fumetti vanno in televisione, vanno sullo schermo cinematografico, come dire, è diverso. Però prima nei fumetti si potevano fare cose che nel cinema non si potevano fare, cioè gli effetti speciali erano più nei fumetti. Mi piacevano Flash, Hero, Gotham, Daredevil, Supergirl, tutti questi fumetti. E sono abbastanza critico per certi versi, comunque continua a battermi il cuore quando vedo il logo dei comics, dei DC Comics, proprio ho un brivido, cioè ritorno ragazzino, anche quando mi dicono c'è un nuovo Superman che viene fuori, sì, magari non sarà un granché, però diciamo questo risveglia il ragazzino che è in me. It's probably gonna be bad, but I think I'll like it because I want to see it. I want it to be good, and you never know until you see it. And there, but those things really awaken the child in me, probably more than anything. You also have all these kids that are jaded in their 20s. The Superman, the superhero comics, I wouldn't see them. I'm going, I want to see them. I'm still a big kid, you know. Sono un bambimone quando quelli che fanno un po' così i superiori e dicono ah sì c'è un come dire Superman, ma no, yeah, non ci interessa. Io invece no. It's that poise of like I'm too sophisticated. Sono troppo sofisticato per guardare queste cose. Io invece no, io li guardo. Lei ha scritto di fumetti, nel senso che ha scritto tra racconti, romanzi e sceneggiature di due supereroi. Uno è Batman e l'altro è Superman. Il preferito? Oh, ok. Batman. Batman, sicuramente. Batman. Ci sono dei fan di Batman qui in sala? Well, let me hear vedo you. Molte macchine. Beh, fatemi sentire. Batman. Perché il preferito? Perché il preferito? Well, you know that it's funny, my è divertente. Mio figlio ha scritto un articolo su questo argomento intitolato Mio padre è Batman, perché io volevo essere Batman. Da bambino, nel piccolo paesino in cui abitavamo, leggevo i fumetti di Batman e mia madre mi aveva cucito un costume da Batman con le orecchie di cartone. Faceva caldo dentro quel costume, il sudore faceva un po' afflosciare le orecchie e sembravo un pastore tedesco malato. But my nephew, who was almost my age, mio nipote, che aveva quasi la mia età, perché mio fratello lo ha avuto a 17 anni, era Robin. E insieme dovevamo combattere il crimine. Una sera ci fu una rapina in banca, ma noi in quel momento stavamo dormendo e così mi resi conto che non eravamo affatto pronti. La cosa che mi piaceva di Batman, comunque, era il fatto che era totalmente umano, non aveva superpoteri. Pensai, non potrò mai essere Superman, non potrò mai essere Lanterna Verde, non potrò mai essere Aquaman o Flash. Inoltre Batman aveva studiato le arti marziali, proprio come me. Le pratico da 55 anni. Adesso sono un po' in là con l'età, ma in passato ho tirato di boxe, ho fatto la lotta, il judo, l'aikido, il kempo, il wrestling. Le ho fatte tutte. Ho anche una scuola di arti marziali in Texas. Ha fatto di più perché lei ha inventato lo Shen Chuan, che è uno stile. Shen Chuan? Sì, Shen Chuan. Cos'è, grosso modo? Shen Chuan is kind of a... Lo Shen Chuan è un insieme di tutte le cose che ho imparato. È davvero un miscuglio, un mix di quello che ho appreso. E fa anche parte della Federazione delle Arti Marziali Internazionali Statunitensi. Non solo, ho studiato tutta una serie di cose esoteriche, così come ha fatto Batman. E anche se non sono mai riuscito a diventare Batman, credo che quei fumetti, tornando appunto ai fumetti e a Batman, mi abbiano suggerito una serie di interessi vasti che continuo ad avere ancora oggi. E mi hanno dato anche un profondo rispetto per gli ultimi, per i perdenti. Ho capito che anch'io ero un perdente. Eravamo poveri, certo non i più poveri, ma non eravamo affatto benestanti. E molto di questo mi ha chiaramente ispirato, ha contribuito a fare di me quello che sono. Un'ultima curiosità è, per i fumetti, come anche nelle opere di letteratura, come anche nelle sceneggiature, e si vede che tutto questo traspare anche dalle sue, l'importanza della politica, no? Ancorata come ancora al reale rispetto al lato fantastico. Ecco, volevo sapere quanto era importante anche questo aspetto. It is for me, you know, even though, like I say, I don't think of myself as jaded or... Sì, la politica è senz'altro importante per me, l'aspetto politico. Non voglio fare così il blasé, il sofisticato, ma penso che ci sia una risposta nei libri a problemi sociali, problemi culturali, problemi politici, più magari nei libri di Happ and Leonard, in cui si affrontano tante problematiche, tante questioni, in certi libri è più evidente che in altri invece siamo più in superficie, se vogliamo. Ovviamente non arrivo al punto di fare lezione, diciamo, attraverso il libro, di voler fare la predica, ma quello che mi interessa è intrattenere il lettore, divertirlo, ma con della sostanza. Pudding, you know, I want it to be something with a little texture. Thank you. Thank you. Con questo è tutto, vi salutiamo, ciao.